fronte a te. O sole, o sole mio, stai la fronte a te, stai la fronte a te. Sotto a fede.